Anzi, di ragione. Oh wow, we're on that. Oh, why? But I salve a tutti, buongiorno, buonasera. È più di un'ora che l'ho calato, non è salito certamente ma solato, non sento neanche l'anfetamina, non so se vivo sveglio fino a domattina. Acido, acida, acido, acida, acido, acida, acido. Sono tutti mostri, sono tutte streghe, sono tutti infami, tutti i servi del potere. Sono tutti sbirri, sono della Lazio, si m'è salito, me so già cagato il cazzo. Acido, acida, acido, acida, acido, acida, acido. Grazie. C'era un re nel suo giardino che nel cuore era un bambino. Lui viveva nei suoi sogni e il suo regno era un gioco per lui. Lui viveva nei suoi sogni e il suo regno era un gioco per lui. Le bandiere erano farfalle, non si stancava mai di guardarle, di rincorrere per i prati, e i soldati non erano armati, di rincorrere per i prati, e i soldati non erano armati. Ma si sa come succede, questo re non aveva un erede, un ministro armò una congiura ed il popolo ora ha paura. Un ministro armò una congiura ed il popolo ora ha paura. del nuovo re con i suoi generali. Le bandiere non hanno più ali, le farfalle fuggite dai prati. I soldati ora son ben armati, le farfalle fuggite dai prati, e i soldati ora son ben armati, del vecchio re del suo giardino ne parlano i vecchi con qualche bambino. Il tempo dei sogni ormai è finito, se n'è andato e non tornerà più. Wow, wow, wow, wow. Questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Sono la causa di tutti i miei guai. Volevo andare a raccogliere i fiori da sotto gli alberi in via Rissori. Volevo raccoglierne di tanti colori, ma questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Sono la causa di tutti i miei guai. Le strade di Roma sono piene di traffico e questi autobus non passano mai. E anche se arrivano stanno ore nel traffico e sono la causa di tutti i miei guai. Questi autobus non passano mai. Volevo partire, emigrare in America, lasciare tutto, andare via da qua, cercare un nuovo mondo, ritrovarlo in America. Ma questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Questi autobus non passano mai. Sono la causa di tutti i miei guai. Ta-ra-ta-da, ta-ra-ta-da. Yuhu! La volante lentamente si avvicina, vedi. Le bottiglie sotto piene di benzina, vedrai. Sul muretto ci sono 15 assassini, vedrai. Che hanno sempre rotto il culo ai celerini, vedrai. Molotov, tira la boccia, Molotov, tirala bene, Molotov, prendi la mira, Molotov, guarda che fiamma, dal blindato gli esce fuori in celerino, vedai. E gli arriva dritto in faccia un San Pietrino, vedai. Quell'ordigno ora è stato lanciato, vedai. Il blindato prende fuoco sul selciato, vedai. Molotov, tira la boccia, Molotov, tira bene, Molotov, prendi la mira, Molotov, guarda che fiamma. Yeah. piazza di Spagna solita giornata, tra prego ferma la città ingombrata, ma quanta gente, quanta che ce n'era, guardali in alto tutti si gridavano, alla scuola dei padroni, via il governo, dimissioni. E mi guardati tu come a chi stanchi, mentre ero ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, ci stavano certo cose più importanti, no, la scuola dei padroni, via il governo, dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed hanno picchiato come fanno sempre loro, ma all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, non si è scappati più, non si è scappati più. Un 10 1/4 di architettura, non c'era alcun ragione per paura, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, no, la scuola dei padroni, via il governo, dimissioni. Scusate che no. Scusate. Desta Roma, nemico desta terra, nemico dest'amore, nemico desta guerra, nemico del comando, nemico degli ultra, nemico delle fate, nemico d'alfata. Coi cornuti, picchetto dei mariti, picchetto delle brosi, picchetto dei falliti, picchetto dei partiti, picchetto dei pentiti, picchetto dei sciacalli, picchettare i cavalli. È il fuoco giallo-rosso, è un fuoco più sincero, non gioca con l'amore, questa notte è nero. La fiamma giallo-rossa è Roma primavera, non perderà l'amore a chi perde la galera. È il fuoco giallo-rosso su Roma di Pustina, non perderà l'amore a chi perde coccoina. Quanto sei infame, quanto sei infame, ha regalato Roma al Papa alle campane. Quanto sei infame, quanto sei infame, ti ha già tirato su sta terra al verderame. Quanto sei infame, quanto sei infame, ha già venduto quest'amore alle madame. Passandosi cascando tanti casini, mandando via le donne e i bambini, facendo passare noi per assassini, ma io sto sui monti di Burtini, in compagnia dei gatti e dei pulcini. Nemico desta Roma, nemico desta terra, nemico desta amore, nemico desta guerra, nemico del comando, nemico degli ultra, nemico delle fate, nemico di Alfata. La Roma è guerra santa, la Roma è pacciamama, non venderà l'amore a chi venderà madama. tirano, tirano, corri più forte che puoi. Scoppiano, bruciano, hanno paura di noi. Chi c'ha paura dei lupi? Chi c'ha paura di me? Chi c'ha paura di amare l'amore sognando un Dio che non c'è? Stancami, stancami musica, fammi volare con te. Amami, stringimi, toccami, portami tutto l'amore che c'è. In un mondo di bambini sopra i monti di burtini, tanto tutto l'amore che c'è. Tra le piante e gli animali fermo tutti i tribunali, ancora riesco a far l'amore con te. Chi c'ha paura di un amore pagano? Chi c'ha paura di un violino cigano? Chi c'ha paura di una Venere alata? Chi c'ha paura di una Roma fatata? In un mondo di colori dove danzano i motori, nostri cuori stanno facendo paura. Una nuova inquisizione vende caro il suo bastone e si ammazza con la sua puntura. Chi c'ha paura di Cinecittà? Chi c'ha paura del comando ultra? Chi c'ha paura della pacciamama? Chi c'ha paura della Roma pagana? Chi c'ha paura della primavera? Chi c'ha paura della Venere nera? Chi c'ha paura della fata turchina? Chi c'ha paura della Tiburtina? Torna Venere bambina, torna sulla Tiburtina, torna fata dei colori, torna Venere dei fiori, torna lava di Vulcano, torna cuore partigiano. Tutto l'amore che c'è, divina provvidenza, tutto l'amore che c'è, fuochi di resistenza, tutto l'amore che c'è, paura di Vulcano, tutto l'amore che c'è, di un sogno partigiano, tutto l'amore che c'è, la Santa Inquisizione, tutto l'amore che c'è, il tuono del cannone, tutto l'amore che c'è, paura di Vulcano, tutto l'amore che c'è, di un sogno partigiano, tutto l'amore che c'è, paura dei bambini, tutto l'amore che c'è, dei monti di Burtini, tutto l'amore che c'è, paura di Cigano, tutto l'amore che c'è, di un razzo in Vaticano, tutto l'amore che c'è, la Roma è guerra santa, tutto l'amore che c'è, il coro ancora canta, tutto l'amore che c'è, la Roma primavera, tutto l'amore che c'è, non vende la galera, torna Venere bambina, wow wow wow wow wow, torna sulla Tiburtina. Thank you. a passo di fa. Dal ventato esce fuori un cielo. No, vabbè. La volante lentamente si avvicina, ma dai! Le bottiglie sono già piene di benzina, e dai! Sul muretto ci sono 15 assassini, e dai! Che hanno sempre rotto il culo ai celerini, e dai! Ma tira la boccia, Molotov, tirala bene, Molotov, prendi la mira, Molotov. Dal blindato gli esce fuori un celerino, dai. E gli arriva dritto un pazzo, un San Pietrino, dai. Quell'ordigno oramai è stato lanciato, dai. Il blindato prende fuoco sul selciato, dai. Molotov, tira la boccia, Molotov, tira la bene, Molotov, prendi la mira. Da. Scusate, però c'ho un po' che alto, allora mi devo un attimo. Non succede niente, non si rompe niente. Non si rompe niente. Tranquilla. Sto a piedi nudi. Sto a piedi nudi. No, no, il calzino no. Come tiri i bulloni con la fionda, tu li tiri a parabola inclinata, tu li tiri sulla fronte dell'odiato camerata. Come tiri i bulloni con la fionda, tu li tiri a parabola inclinata, tu li tiri sui blindati. Sui blindati in mezzo al via, là in mezzo al via ci sono gibbon che fumano, là in mezzo al via ci sono gibbon che fumano, là in mezzo al via ci sono gibbon che fumano, sono le nostre bocce che si consumano, sono le nostre bocce che si consumano. Wow. Non mi ricordo come comincia. La la la la la la la la la la la la la la. Se rubo per mangiare non mi puoi condannare, i soldi per pagare adesso non ce l'ho. Non spacco le vetrine, non faccio le rapine, io rubo solamente quello che mangerò. No, non farmi impazzire. O apro la cassa e è pazzo, ma basta, la pistola è il passamontagna, se poi parte un colpo, ma chi ci guadagna? Non sono uno scienziato, non sono laureato, ma so che se non mangio io presto morirò. Non l'hai capito ancora, non serve andare a scuola, ma prima di morire qualcosa io farò. No, non farmi impazzire, o apro la cassa e faccio man basta. La pistola è il passamontagna, se poi parte il colpo, ma chi ci guadagna? Ma sai come sto a studiare? Aiuto. Dunque, a questo punto c'era una cosa che vi volevo dire, però mi è arrivata una cosa nell'occhio. La maglia. Allora, signor commissario, non mi picchi ancora, l'ho messa io la bomba sotto quella scuola, non ne potevo più e così ho deciso di farla saltare su. Tanto tutte le scuole sarebbero saltate da sole. Signor commissario, non mi rechi offesa, ho messo io la bomba proprio in quella chiesa, non ne potevo più e così ho deciso di farlo saltare su. Tanto tutte le chiese sarebbero saltate fra un mese. Signor commissario, non mi rompa il cazzo, ho messa io la bomba proprio in quel palazzo, non ne potevo più e così ho deciso di farlo saltare su. Tanto quel palazzo non serviva proprio a niente. Signor commissario, non mi fai paura, l'ho messa io la bomba proprio qui in questura, e se io fossi lei non sarei sicuro, potrebbe averla sotto al culo, potrebbe averla sotto al culo, potrebbe averla sotto al buco del culo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Thank you. No, aspetta, fammela un'altra. Allora, fammi sta prendendo. Tanto questa fa la censura. Violenza. Primo anniversario della strage, fatta con le bombe dei padroni. Loro l'hanno calcolata bene per fregarci con la repressione, carcere, denunce, rappresaglie. Hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, l'han tirati fuori dalle fogne. 12 dicembre a Milano, manifestazione per la Spagna, passa un corteo partigiano coi carabinieri alle calcagna. Finito tutto, molti vanno via, altri restano lì coi pugni alzati a gridare viva l'anarchia. Guida calabresi fucilati, Vittoria vince questore con la radio, chiama autoblindo e camionette, con la bocca secca sputa odio, ordina la carica e le botte, scoppiano dovunque candelotti, bruciano i polmoni da star male, c'è chi cade sotto i poliziotti e chi corre verso la statale. In via Torino non ci sono santi, San Babilo i fascisti sono a messa, in via Larga ci sono gli studenti con il casco e la bandiera rossa, urlano feroci le sirene, arrivano gli anarchici di corsa, i compagni danno protezione, Vittoria non perde l'occasione. Molti hanno paura, scappano via, rimangono a combattere i Katanga e sulle ossa della polizia picchiano col ferro della spranga. La questura spara col fucile, con i sassi noi ci difendiamo, ne mandiamo alcuni all'ospedale, ma stavolta cara la paghiamo. T'hanno visto morto lì per terra, con il sangue al petto e gli occhi gialli, eri morto come in una guerra, torturato e ucciso da sciacalli. Ma ci penserà il proletariato, sarà forse oggi anche domani, non si parlerà di sindacato, ma di comunismo e munizioni. Allora tu ci lascerai la pelle, tu Marzotto, tu Giovanni Agnelli, perché ce ne saranno più di mille per ogni Saverio Saltarelli. Cada, cada, cada, cadanganga, cada, cada, cadanganga. Allora, che possiamo fare? I Beatles! Ah, mitico! sei tu che quando balli così sai provocare. Non sai cosa tieni qui dentro me. Così continua pure così, che ci sai dare amore, amore. E poi quel tuo compagno lì, ma chi è? E tu delusa, attenta che chi troppo abusa rischia un po' di più. Che se c'è il lupo rischi tu. Ehi tu delusa, che cosa vuoi che sia una scusa? Vai pur lì che io non so che cosa è il sesso e il rock and roll. Oggi c'era il concerto di Vasco. No, adesso facciamo... Ma c'è da nel frutta, te la mangerai tutta. Ma c'è da nel frutta, vieni te la diamo. Vieni te la diamo noi. Vieni te la diamo, non puoi rifiutarla. Te la regaliamo, devi mangiarla. Se non vuoi essere come loro non tirarti indietro. Vieni a chi su non fare quello sguardo dentro. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow. Mazzola di frutta, te la mangiare tutta. Mazzola di frutta, vieni te la diamo. Vieni te la diamo noi. Il cielo splende, gli sono verdi. Dentro i suoi occhi non sai quel che perdi. Se non sfiora la tua mano i suoi bei capelli, non potrai mai capire il volo degli uccelli. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow. Mangiare di frutta, te la mangerai tutta. Mangiare di frutta, vieni te la diamo. Vieni te la diamo noi. Quella non me la ricordo bene. A grande richiesta fischia il vento in furia la bufera. Oh, poi se vuoi venire sopra. Fischia il vento in furia la bufera. Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del più belle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il colpo, il braccio nel colpì. Nella notte lo guidano le stelle, forte il colpo, il braccio nel colpì. Se lo coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano. Ormai vicina è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai vicina è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa fiero il partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi e quindi perizia. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin di perizia. Wow. ancora Molotov. Ora che a quanti esistono? Ma faccio un altro dono. Talmentato a chef, no, la volante lentamente si avvicina. Dai, le bottiglie sono già piene di benzina. Dai, sul muretto ci sono 15 assassini. Dai, che gli ha sempre rotto il culo ai celerini. Molotov tira boccia, Molotov tira bene, Molotov prendi la mira, Molotov guarda che fiamma, dal blindato esce fuori un celerino, Molotov e gli arriva tutto il fatto. L'ordigno ora mi è stato lanciato, Molotov. Il blindato prende fuoco sul selciato, Molotov. Tira boccia, Molotov. Tira bene, Molotov. Prendi la mira, Molotov. Guarda che fiamma. Scusate, a Milano quella sera era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apri un po' la finestra, l'altro 30 e Pinelli va giù. Sor questore, io te l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia della libertà. Poche storie, viziato Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato. Lui è l'autore di questo attentato e il suo complice certo sei tu. Possibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto. E gli autori di questo delitto tra i padroni dovrete cercare. L'hanno ucciso con attenzione, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Noi apriamo la finestra, quattro piani son duri da fa. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente. Era anarchico e questo ci basta, disse guida il fascista questo. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere. Noi quel giorno l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida, e tu calabresi, che un compagno ci avete ammazzato. Per coprire una strage di Stato, la risposta più dura sarà. A Milano quella sera era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. La canzone di Pinocchio, no? La musica è carina, la la, la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Allora, più nudo di così. I calzini. I calzini. Scusate che faccio un piccolo drink. Scusate. Che è finito? Poco? Signore, non è una preghiera, Signore, tra le tende schierati per salutare il di che muo. No! Signor padrone, questa volta per te andrà di certo male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Noi si continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna aspettare. A di lottare non ne parla mai. Signor padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia. Senti il silenzio nelle officine. Forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. Ma questa volta non ci compri con le 100 lire dell'aumento. Se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 noi voglia. E quando siamo scesi in piazza tu t'aspettavi un funerale, invece è andata davvero male. Per chi voleva farci addormentare, se ne sono visti davvero tanti di manganelli e scudi romani. Ma si sono viste anche tante mani che al San Pietrino cominciano ad andar. Tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura. Il comunismo trionferà. No ai burocrati e no ai padroni. Cosa vogliamo? Vogliamo tutto. Lotta dura a mirafiori. Il comunismo trionferà. Thank you. chi c'ha paura delle fate di Zigano, chi c'ha paura di un amore partigiano, chi c'ha paura di quel mondo di bambini che fa i concerti sui monti di Burtini, chi c'ha paura di quel mondo di compagni che va per l'onda a farti fare tante bagni, che si fa i bagni anche alla valle della luna dove i più ricchi non incontrano fortuna. Chi c'ha paura? Poi ci hanno detto siete tutti assassini, ci hanno tirato addosso mille celerini, ci hanno tirato addosso a Roma una bufera che ci ha portato nel silenzio della sera, che ha sparato sulla Roma primavera, che ha distrutto quella pianta in sigrigliera, che ha disarmato quella Roma innamorata. Quanta paura di una Venere incazzata, quanta paura di una Venere pagana, che non rivende quest'amore alla madama, che non rivende quest'amore agli assassini, ma lo regala tutto al cuore dei bambini. Mi sa che la serata volge al termine. Che dice? Questa è tristissima. Botte su botte, poi l'isolamento spesso finisce così. Quei brutti boia, figli di troia, non fanno che pestare. Non si ci può neanche lamentare, non si può neanche parlare. Basta un lamento per il carcerato, per esser massacrato delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità. E dopo in fila uno per uno vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicar. Siamo saliti tutti sul tetto gridando parci nazisti, vogliamo avere i nostri diritti o la dovrete pagare. E ci ha risposto il direttore con mille poliziotti, e dai giornali è andato a dire che era disposto a trattare delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità. E dopo in fila uno per uno li metteremo tutti là. E se per caso voi sentirete che è morto un cancerato, certo è possibile che quel disgraziato sia stato massacrato. Ma se vi parlano di rivolte, di lotte nelle prigioni, è perché cresce la lotta di classe contro tutti i padroni delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far. Prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità. E dopo in fila, uno per uno, vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. Oh ragazzi, è stato un piacere. Chiudo in bellezza. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Grazie a tutti per la serata. De un mundo mejor será una guerra santa, será una guerra cruel, será tu nueva vida, amor por será nuestra esperanza, será nueva unidad, será tu nueva vida, amor e tu nota. Prepara il combatte, prepara il fusil, prepara tus cosas para combattir. Prepara il combatte, prepara il fusil, prepara tu niente para renacer. Violencia contra el opresor, violencia como organización, violencia. Violencia, violencia. Nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino, sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti di ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui cipponi, sta nei sogni dei teppisti, sta nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato. Nella fine dello stato. Basta, raga, è finito il tempo. Grazie a tutti, ragazzi, è stato un vero piacere. Tempo che smonta. Allegra, non mi viene in mente più niente. Questa è un po' blasfema. Se Simone Pietro il pesce non venderà, Diana con le Bertini continua a cacciare. Non se stanno certo a farci uscire da te, che può andare in cielo perché può essere re. Marte ha già scagliato le sue lupe per te, ma vuole capire Maddalena dov'è. Isi delle gatte che ha tifato per te, non vogliono andare tutte in cielo con te. Maddalena dov'è? Jesus Christ, Jesus Christ, vinci l'amore ti salverà. Jesus Christ, superstar, la Roma vince se vincerai. Venere ti guarda, non capisci perché. Se in amore vince Roma, vince con te. Se non vuoi danzare per la vita con lei, non farti ammazzare dagli tuoi farisei. Tutti sti bambini stanno tifando per te, strillano a Cristo non casca pure te. Ne amo visti già di tanti santi ed eroi, Cristo sta in campana fai mori pure noi. Illegal, illegal, l'amore illegal vincerà. Illegal, illegal, l'amore illegal vincerà. Basta, ragazzi, mi dispiace, ma... Grazie di tutto, grazie a tutti.